Friuli nel mondo. Ai Piombi, taverna d'altri tempi. Quattordicesima trasmissione dedicata agli emigrati. Carnevale 1904 nel Teatro Minerva di Udine. Serve il ballo benefico della Dante Alighieri, della società assidua nella diffusione della lingua e della cultura italiana a Trieste e nell'Istria. Sala affollata, maschere e abiti da sera in gioconda promiscuità, nembi di coriandoli e di stelle filanti. Una grande effigie del divino poeta sul palcoscenico dietro l'orchestra, instancabile nel concedere il bis di una polca a cui il pubblico aveva adattate le parole. Lascia sposa il fianco, vestita di bianco. Allo scoccare della mezzanotte il frastuono si placa. Al proscenio un bello spirito, sempre in testa alle brigate del buon umore. Annunzia. Une visite ai Piombi. Balzano in quartine dalla facile rima ambiente e tipi di una taverna che si inabissava in una casa di via Manin, meta di bevitori dalla sete inestinguibile. Molti lo seguono col testo acquistato e stampato su un foglietto volante. Carnevale 1904, 50 anni. Una commemorazione, dunque, meglio una rievocazione d'una famosa osteria in cui il fumo stagnava sotto le volte del soffitto. Una rievocazione dei Piombi. Un tanfo di vueli, di ai, di pesprit, un fum cal schiapoe, cal strope il suffit. La palide flamme dai magri slusors risclare la scene, paron avventors. E che avventori, tipi degni del Goya, sentitene i nomi. Tite Slace, Schulz, Znianf, Bambin, Basaldella Pumpete, Bonan, Pindul, Masanete, Bondanze. Uno li riassume tutti, Musan. Si annunziava con una fischiatina particolare, la sua sigla. Spreggiava il denaro, buttandolo, le poche volte che ne possedeva, al codazzo dei ragazzi che lo seguiva dovunque. Protettore di cani randagi, allevatore di uccelli, francescanamente tenero verso tutti gli animali, rettili compresi. La taverna si scuoteva dal torpore pomeridiano quando la campana del Duomo annunziava un funerale. I Piombini raggiungevano allora di buon passo le farmacie dove si dispensavano torce a consumo. I parenti del defunto non potevano attendersi accompagnatori più premurosi, che ricompensavano con una liretta prima che il corteo si muovesse. Ma questo non era ancora entrato in chiesa, che quelli erano già nell'antro. Cosunin in domo di muart la campane, la clape si sfante, si svuede la tane. La file dai corvos riviote il soreli. Te place d'eglesi e non rive la bare, che i mengos destorcis son già duciottiare. La frase di luto si spampa al locale. I è semplice, breve, i è sentimental. Cuieri al giopieri, cuieri al ilmuar. No sai, calci sbombi, guardai mica un quart. Verso sera il ritrovo si animava. Vi vi affluivano i mendicanti che scambiavano gli spiccioli accattati con un piatto di trippa o baccalà. Vi comparivano clienti di un certo riguardo che il proprietario, un nativo meridionale al quale doveva ridere la fortuna nei commerci, salutava con particolare deferenza. L'ambiente si saturava rapidamente. Al crocchio degli intellettuali, un dottore, un maestro di ballo, un maestro di musica, un giornalista, facevano contrasto i giocatori di carte, i giocatori di morra. La parlata friulana si incrociava con le parlate venete e meridionali. L'ambiente impossibile, la puce, il calore, ti siarin la gole, il chiattivator, e batin la briscule, si sfidin amore. Già va, cale un quattri, calmati il parzore! Porzione di piccoli! Porce, cale il moto! Ti basti un epistole! Portemi un decotto! Breve il passo dal gioco alla rissa. Non mancava chi s'azzuffasse a suon di schiaffi, scopulis, mettendo tutto a soquadro. Si tacchin a scopulis, si brinchin palquel, ribaltin gli staulis, succetum pestel. No zovin per aulis, parmeti la pas, si dan iu pecoce, si mangin il nas. A por fine allo scompiglio capita la polizia, ma tutto si conclude in una sfuriata e in una bevuta. Così il sereno ritorna, se di sereno si può parlare in quella tana fumosa, ritorna tra i bevitori variamente seduti o accasciati. Uno di essi, non reggendo in piedi, rotola sotto un tavolo, seguito da altri che, incapaci di salire a riveder le stelle con mezzi propri, vengono sollevati da una corda saldata alle ascelle e a una carucola esterna, abbandonati a smaltire la sbornia sull'acciottolato del cortile. Qui finisce la poesia densa di colori e di odori e di scurrilità non riportabili. Una pagina comunque che ha avuto più lettori che tutte le poesie di tutti gli altri poeti del Friuli. In chiusa, una quartina che compendia un analogo desiderio del Rabelais, il quale avrebbe voluto alimentare col suo ventre dopo morto una pianta di vite. Proprio il desiderio ultimo dei piombini. Quando il vino di Puglia ci condurrà nel cimitero di San Vito, non occorrerà una croce, basterà piantare una vite. Nessun nome in calce al foglietto distribuito 50 anni or sono nel Teatro Minerva di Udine, ora scomparso. L'autore della poesia si è conosciuto soltanto più tardi, un irredento di nobile cuore, Romeo Battistige. Per parecchie sere, accompagnato da un amico che ci ha raccontato questo particolare, egli sostava ai piombi, annotando le quartine sulla carta da impacco a contatto con quel porto di stanchi della vita. Umile tra gli umili, consumava anche lui il suo piatto di baccalà, la sua cena, offertogli dall'amico. Premeva a Romeo il successo del componimento che si sarebbe venduto nel ballo della Dante. L'utile, sia pure modesto, non avrebbe contribuito alla causa per la quale tanti avevano sofferto e sperato, per la quale tanto speravano e soffrivano. Interventista pugnace, ardentissimo, partì volontario allo scoppio della guerra del 15 e aveva 50 anni. Raggiunto il ponte di Sagrado sulla strada di Trieste, cadde il 15 giugno colpito in fronte. In uno slancio d'amor patrio, nello spirito del risorgimento, aveva voluto almeno vedere l'acqua dell'Isonzo, azzurra come i suoi miti occhi di sognatore. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo. Ai piombi, una taverna di altri tempi. Testo di Chino Ermacora. Adattamento musicale di Ezio Vittorio. Hanno partecipato alla trasmissione Ottavio Valerio e il complesso musicale dell'Enal Provinciale di Udine.